Capitolo 24. Una visita inaspettata. Pollyanna non andò a scuola il giorno successivo, né quello dopo. Tuttavia la bambina non se ne rese conto se non in quei brevi momenti di piena lucidità durante i quali insisteva con le domande. In realtà, Pollyanna non capì con chiarezza la situazione se non dopo una settimana, quando la febbre cessò, il dolore alla testa si attenuò e lei riacquistò una perfetta lucidità. Allora fu necessario ripeterle quanto era accaduto. Dunque sono ferita e non ammalata, sospirò alla fine. Bene, sono contenta che sia così. Contenta, Pollyanna? Chiese la zia che era seduta accanto al letto. Sì, preferisco avere le gambe rotte come il signor Pendleton piuttosto che essere un'invalida per tutta la vita come la signora Snow. Le fratture vanno a posto mentre gli invalidi non hanno via di uscita. La signorina Polly, che non aveva mai parlato di gambe rotte, si alzò di colpo e andò vicino a un tavolino pieno di soprammobili posto dall'altra parte della stanza. Prendeva un oggetto per deporlo subito e prenderne un altro, tradendo così un'agitazione e una mancanza di determinazione del tutto insolita per il suo carattere. Aveva il volto pallido e tirato. Pollyanna, dal letto, fissava la striscia di luce colorata proveniente da un prisma appeso alla finestra che danzava sul soffitto. Sono contenta di non avere la varicella, disse Pollyanna tranquillamente. Sarebbe molto peggio delle lentiggini. E sono anche contenta che non sia la tosse asinina, quella l'ho già avuta, è una cosa orrenda. Meno male poi che non ho l'appendicite nel morbillo, che è contagioso, il morbillo voglio dire, e così non potresti stare qui con me a tenermi compagnia. Sembra che siano molte le cose di cui sei contenta, tesoro, disse la zia mettendosi una mano alla gola per lo sforzo di sembrare naturale. È vero, esclamò Pollyanna sorridendo. Mi vengono tutte in mente ogni volta che guardo quell'arcobaleno. Adoro gli arcobaleni. Sono così contenta che il signor Pendleton mi abbia regalato quei prismi di cristallo. Sono contenta di molte cose, non so perché, ma sono contenta di aver avuto un incidente. Pollyanna. Pollyanna sorrise ancora e guardò la zia con grandi occhi espressivi. Vedi, da quando sono a letto mi hai detto tesoro tante volte. Prima non me lo dicevi. Mi piace tanto sentirmi dire tesoro da te. Qualcuna delle signore dell'assistenza me lo diceva e mi piaceva molto, ma non era come sentirlo dire da te, oh zia Polly. Sono così felice che tu sia mia zia. La zia non rispose. Si mise ancora una mano sulla gola. Aveva gli occhi pieni di lacrime, si voltò in fretta e lasciò la stanza mentre entrava l'infermiera. Quel pomeriggio Nancy corse eccitata verso il portico dove Tom stava pulendo i finimenti. Signor Tom, indovina una cosa, disse ansimando. Non li indovineresti in 100 anni, non li indovineresti. È inutile che mi sforzi allora, rispose Tom cupo, considerato che non mi restano da vivere più di 10 anni, tanto vale che lo sappia subito, Nancy. Bene. Allora ascolta, chi pensi che ci sia in salotto con la signorina Harrington? Indovina, chi? Il vecchio Tom scosse la testa. Proprio non saprei, disse. Te lo dico io allora, c'è il signor John Pendleton. Ma dai, vuoi scherzare? No, non sto scherzando, l'ho fatto entrare io stessa, lui e le sue stampelle. E la carrozza è fuori dalla porta ad aspettarlo, come se non fosse quel vecchio misantropo che non parla mai con nessuno. Pensa, Tom. È lui che viene a fare visita. E che c'è di strano? Chiese Tom spazientito. Nancy gli diede un'occhiata di scherno, come se non lo sapessi meglio di me, disse con lo stesso tono. Come? Oh, non fare l'ingenuo proprio tu, disse sarcastica. Che cosa vuoi dire? Nancy gettò un'occhiata verso la casa, poi si avvicinò ancora di più al vecchio giardiniere. Non sei stato tu a dirmi che la signorina Polly aveva avuto un innamorato tanti anni fa? Sì o no? Certe volte penso che 2 più 2 faccia 4, ma altre volte succede che fa 5 e non 4. Il vecchio Tom fece un gesto di insofferenza e riprese il suo lavoro. Se vuoi parlare con me, devi dire le cose chiare, disse Tom. I numeri non sono mai stati il mio forte. Nancy rise. Il fatto è questo, disse Nancy, cercando di essere più chiara. Ho udito una voce secondo cui la signorina Polly era innamorata di lui. Il signor Pendleton, esclamò Tom drizzandosi. Sì, oh, lo so bene ora. Lui invece amava la madre della bambina e per questo voleva. Ma lasciamo perdere, aggiunse in fretta Nancy, ricordando appena in tempo di aver promesso a Pollyanna di non dire a nessuno che il signor Pendleton avrebbe voluto che lei, Pollyanna, andasse a vivere con lui. Così ho domandato in giro perché avevo scoperto che lui e la signorina Polly non si parlavano da anni e che lei lo odiava per le chiacchiere che avevano messo in giro a loro riguardo quando lei aveva 18 o 20 anni. Sì, mi ricordo, annuì Tom. È stato 3 o 4 anni dopo che la signorina Jenny lo rifiutò e se ne andò con l'altro. La signorina Polly era a conoscenza della faccenda, naturalmente, e le dispiacque, così cercò di essere gentile con lui. Forse esagerò un po', era veramente arrabbiata con quel pastore che le aveva portato via la sorella. Comunque fossero le cose, nacquero dei pettegolezzi e qualcuno disse che lei gli correva dietro. Correre dietro a un uomo? Lei? Esclamò Nancy. Anch'io non lo credo, ma la gente lo diceva, dichiarò Tom, e naturalmente nessuna ragazza che si rispetti può sopportare una cosa simile. Fu più o meno in quel periodo che conobbe la persona della quale si innamorò, ma poi ci fu la rottura. Da allora si è chiusa in se stessa e non ha più voluto vedere nessuno per molto tempo. Il suo cuore è diventato duro come un sasso. Eh sì, lo so. Ho sentito parlare di tutta questa storia, disse Nancy. Per questo sono rimasta di stucco quando l'ho visto arrivare. Lui, una persona con cui la signorina Polly non parlava da anni. Ma l'ho fatto entrare e sono andata subito ad avvertirla. E che cosa ha detto? Era il vecchio Tom a essere incuriosito adesso. E sulle prime niente, è rimasta così impassibile che pensavo non avesse udito. Stavo per ripeterglielo quando mi ha detto con tutta calma: «Dia al signor Pendleton che scendo subito». Allora sono scesa e gliel'ho detto, ed eccomi qui a raccontartelo, concluse Nancy gettando un'altra occhiata verso la casa. Fece il vecchio Tom riprendendo il lavoro. Nel salotto di rappresentanza di casa Harrington, John Pendleton non dovette attendere a lungo prima che un passo svelto e leggero gli annunciasse l'arrivo della signorina Polly. Fece per alzarsi, ma con un gesto di cortesia lei glielo impedì. Non gli porse la mano, tuttavia, e il suo volto era freddo e distante. «Sono venuto a chiedere notizie di Pollyanna», disse subito Pendleton un po' brusco. «Grazie, le sue condizioni sono stazionarie», disse la signorina Polly. Vale a dire che non può dirmi come stanno le cose veramente? Questa volta la sua voce non era molto ferma. Un'espressione dolorosa apparve sul volto della donna. Non ne sono in grado, magari potessi. Intende dire che ancora non si sa? È così. Ma il dottor Warren sembra disorientato, si è messo in contatto con uno specialista di New York, hanno subito deciso per un consulto, ma quali sono stati i traumi che lei sappia? Un piccolo taglio in testa, qualche scoriazione e qualcosa al midollo spinale che a quanto sembra le ha paralizzato le gambe. Un'espressione di dolorosa sorpresa apparve sul volto di Pendleton. Ci fu un breve silenzio, poi con voce rauca chiese: E Pollyanna come l'ha presa? Oh, non si rende affatto conto di come stiano effettivamente le cose, io non oso dirglielo, ma qualcosa deve pure aver capito. La signorina Polly si portò la mano alla gola, un gesto che le era ormai diventato abituale. Oh, sì, sa che non può muovere le gambe, ma crede si tratti di fratture. Dice di essere contenta di avere le gambe rotte come le ha avute lei, piuttosto che essere un'invalida vita come la signora Snow, perché le fratture si possono curare, mentre per un invalido non c'è niente da fare. Continua a ripetere quelle cose al punto che mi sembra di impazzire. Attraverso il velo di lacrime che gli erano salite agli occhi, Pendleton scorse un volto sofferente e provato. Andò allora con il pensiero alle parole di Pollyanna quando le aveva chiesto per l'ultima volta di andare ad abitare con lui. Come posso lasciare zia Polly proprio adesso? Quel pensiero lo indusse a dire con dolcezza, non appena fu in grado di controllare la voce: Mi chiedo se lei sia a conoscenza, signorina Harrington, che avevo molto insistito con Pollyanna perché venisse a vivere con me. Pollyanna, con lei? Pendleton trasalì un po' per il tono della sua voce. Lui stesso la mantenne fredda e impersonale quando riprese a parlare. Sì, desideravo adottarla legalmente, nominarla mia erede, si capisce. La donna di fronte a lui lo ascoltava attentamente. Pensava che cosa avrebbe rappresentato per Pollyanna quell'adozione. Un futuro davvero brillante. E si chiedeva se Pollyanna potesse mai essere tentata dalla posizione e dal denaro di quell'uomo. Sono molto affezionato a Pollyanna, continuò Pendleton, per due motivi, sia per quello che lei è, sia per il ricordo di sua madre. Ero pronto a dare a Pollyanna quell'amore che ho conservato nel cuore per 25 anni. Amore. La signorina Polly ricordò all'improvviso il motivo per il quale lei aveva preso con sé la bambina. All'inizio quel ricordo le riportò alla mente le parole che la stessa Pollyanna le aveva detto quella mattina. Mi piace tanto essere chiamata tesoro. Sono felice che tu sia mia zia. Ed era questa bambina, assetata d'amore, che veniva offerto un affetto conservato per 25 anni. Con una profonda tristezza la signorina Polly se ne rendeva conto e con altrettanta profonda tristezza si rendeva conto di qualcos'altro, cioè di come sarebbe stato il suo futuro senza Pollyanna. E allora? Domandò. Pendleton, rendendosi conto dello sforzo che la signorina Polly aveva fatto per controllare la sua emozione, rispose con un sorriso triste. Non ha voluto accettare. Perché? Beh, perché non voleva lasciarla. Mi spiegò che era stata tanto buona con lei, voleva stare con lei e disse che pensava che lei volesse tenerla con sé, concluse Pendleton alzandosi in piedi. Senza guardare la signorina Polly, si diresse verso la porta. Subito però udì dei brevi passi accanto a lui e vide una mano tremante che gli veniva tesa. Non appena ci sarà stato il consulto e si saprà qualcosa di più su Pollyanna, glielo farò sapere, disse una voce in tono gentile. Arrivederci e grazie per essere venuto. Pollyanna ne sarà felice. Capitolo 25. L'angoscia dell'attesa. Il giorno successivo alla visita di John Pendleton a casa Harrington, la signorina Polly si dispose a preparare Pollyanna alla visita dello specialista. Pollyanna, tesoro, incominciò con dolcezza, abbiamo pensato, il dottor Warren e io, di farti vedere da un altro medico. Lui potrebbe indicarci qualche nuova cura che possa farti guarire più in fretta. Il volto di Pollyanna si illuminò. Il dottor Chilton! Oh, zia Polly, vorrei tanto che venisse il dottor Chilton. L'ho desiderato tutto questo tempo, ma temevo che tu non ne avessi piacere per il fatto che ti aveva scorta quel giorno nella veranda, così ho preferito non dire niente, ma ora sono tanto contenta che tu lo faccia venire. Il volto di zia Polly sbiancò, poi arrossì, poi si fece di nuovo pallido. Quando riprese a parlare, tuttavia fu chiaro che cercava di mantenere un tono pacato. No, mia cara, non intendevo il dottor Chilton. Si tratta di un altro dottore, un famoso specialista di New York che sa come curare i casi simili al tuo. Oh, non credo che ne sappia neanche la metà del dottor Chilton. Ne sa di più, tesoro, è molto rinomato. Ma è stato il dottor Chilton a curare le gambe del signor Pendleton, zia Polly, e se non ci tieni troppo, preferirei proprio il dottor Chilton. Il volto della signorina Polly rivelò un'angoscia diffusa. Per qualche istante rimase in silenzio, poi disse con dolcezza, sebbene lasciasse trasparire la determinata durezza di un tempo: Ma ci tengo, Pollyanna, ci tengo molto. Farei qualunque cosa per te, ma per una serie di ragioni che adesso è inutile spiegarti, non desidero chiamare il dottor Chilton in questo momento e credimi, non può essere competente riguardo al tuo caso quanto lo specialista che sarà qui domani. Pollyanna non sembrava ancora convinta. Ma zia Polly, se amavi il dottor Chilton, che cosa stai dicendo, Pollyanna? La sua voce si era fatta dura adesso, le guance erano coperte di rossore. Dico che se amavi il dottor Chilton e non amavi l'altro, sospirò Pollyanna, credo che questa sarebbe una buona occasione per lui. Inoltre io voglio bene al dottor Chilton. In quel momento entrò l'infermiera. Con grande sollievo la signorina Polly si alzò e in un tono piuttosto severo disse: Temo che dovrai lasciare che sia io a decidere questa volta. Inoltre è già tutto stabilito. Lo specialista di New York sarà qui domani. Lo specialista invece non arrivò il giorno dopo. Un telegramma giunto all'ultimo momento comunicava un inevitabile ritardo dovuto a un'indisposizione dello specialista stesso. Quella situazione fece sì che Pollyanna rinnovasse la sua richiesta in favore del dottor Chilton, ma ancora una volta la zia Polly scosse il capo, dicendo con fermezza: No, mia cara, pur continuando ad assicurarla che avrebbe fatto qualunque cosa per farle piacere, ogni cosa all'infuori di quella. Non l'avrei mai creduto, nessuno me lo avrebbe fatto credere, disse un giorno Nancy al vecchio Tom. Non c'è un momento della giornata della signorina Polly che non sia dedicato a far contenta quella povera bambina. Lascia perfino entrare il cane e il gatto, lei che una volta non avrebbe fatto avvicinare alle scale gli animali nemmeno per tutto l'oro del mondo. E ora li lascia saltare sul letto solo per far piacere a Pollyanna. Quando non sa più cosa fare, fa dondolare quei cristalli appesi alla finestra. Così il sole fa danzare l'arcobaleno, come dice quella povera piccola. Manda di continuo Timothy dal fiorista a comprare fiori freschi, senza contare tante altre cose che fa andare a prendere. E l'altro giorno non te la trovo seduta vicino al letto con l'infermiera che la pettinava? Mentre Pollyanna, tutta allegra, ordinava dal letto quello che la signorina Hunt doveva fare. E ora? Ora la signorina Polly porta sempre i capelli pettinati in quel modo, tutto purché la nipote sia contenta. Tom ridacchiò tra sé. A me sembra che la signorina Polly non stia affatto male pettinata così. I riccioli intorno al viso le donano molto, concluse in tono obiettivo e distaccato. Certo. Adesso sembra una persona come le altre, sembra quasi... Nancy si interruppe. Sembra quasi carina? Ti ricordi che una volta ti avevo assicurato che la signorina Polly non era affatto brutta? Disse Tom. Nancy alzò le spalle. Oh, per me non è certo bella, ma da un po' di tempo a questa parte non è più la stessa. Anche da quando Pollyanna le ha detto di vestire con colori più chiari, di indossare abiti meno severi, con qualche pizzo o nastro intorno al collo. Te l'avevo detto che non era vecchia, disse Tom. Nancy rise forte. Beh, anche se non lo è, prima dell'arrivo di Pollyanna di sicuro lo sembrava. Dimmi un po', Tom, di chi era innamorata la signorina Polly? Non sono ancora riuscita a scoprirlo, non ancora. Non sei riuscita ancora? Domandò Tom con un'espressione maliziosa negli occhi. Ah, in ogni caso non sarà da me che lo verrai a sapere. Oh, su, Tom, dai, dimmelo, supplicò la ragazza. Non ci sono molte persone che possano farlo. Può darsi, ma comunque ce n'è una qui che non te lo dirà, disse l'uomo tagliando corto. Poi, con tono grave, chiese: Come sta la piccola oggi? La ragazza scosse il capo e anche il suo volto si fece tutto serio. Sempre uguale, Tom. Non c'è nessun segno di miglioramento, è sempre là, distesa. Un po' riposa, un po' parla, cerca di sorridere, di essere contenta perché il sole tramonta o la luna sorge o qualche altra cosa e a sentirla ti si stringe il cuore. Capisco. Cerca di fare il gioco, povera piccola, disse Tom fattosi triste. Ha parlato anche a te di quel gioco, Tom? Chiese Nancy stupita. Sì, me l'ha insegnato diverso tempo fa, disse il giardiniere con una certa esitazione. Poi proseguì. Un giorno mi stavo lamentando del mio mal di schiena, tanto che ero tutto curvo, e cosa pensi che mi abbia detto Pollyanna? Non saprei, non so che cosa avrebbe potuto trovare di piacevole riguardo al mal di schiena, disse Nancy. E invece lei ha detto che dopo tutto non potevo lamentarmi troppo perché per togliere le erbacce non avrei dovuto chinarmi più di tanto. Nella risata di Nancy c'era qualcosa di doloroso. Sì, non mi sorprende. Avrei dovuto immaginare che avrebbe trovato qualcosa anche per te. Io ho fatto il gioco con lei sin dall'inizio perché non c'era nessuno con cui potesse giocare e a sua zia non aveva osato parlarne. Alla signorina Polly? Nancy ridacchiò. Vedo che sul suo conto non la pensi tanto diversamente da me, disse con occhi maliziosi. Tom si irrigidì. Volevo soltanto dire che non potevo immaginare la signorina Polly che faceva quel gioco, disse serio. Certo, sarebbe stata una cosa sorprendente allora, ma adesso non lo è più. Non ci sarebbe proprio da stupirsi se si mettesse a giocare anche lei. Ma la piccola non gliel'ha insegnato? Credo che l'abbia fatto fare proprio a tutti, da quello che ho avuto modo di constatare in giro, da quando ha avuto l'incidente, disse Tom. L'aveva insegnato a tutti, tranne che alla signorina Polly, spiegò Nancy. Pollyanna mi aveva detto tanto tempo fa che non poteva insegnarlo alla zia dal momento che le aveva proibito di nominare il padre in sua presenza. E siccome il gioco l'aveva inventato lui, non avrebbe potuto evitare di nominarlo, e così con sua zia non ne ha mai parlato. Ah, adesso capisco, disse Tom, riflettendo tra sé. Erano tutti contro quel pastore perché si portava via la signorina Jenny e la signorina Polly, anche se era molto giovane, non glielo perdonò mai. Amava molto la sorella, allora capisco adesso. Fu un disastro per la famiglia in quegli anni, concluse Tom, sospirando e riprendendo il lavoro interrotto. Sì, un grande sconquasso, sospirò Nancy a sua volta, tornando in cucina. Quei giorni d'attesa non furono facili per nessuno. La signorina Hunt, l'infermiera, cercava di apparire allegra, ma si capiva che era preoccupata. Il dottore si mostrava apertamente nervoso e impaziente. La signorina Polly parlava poco e anche con i capelli sciolti che le addolcivano il viso e i graziosi collettini di pizzo non riusciva a nascondere il pallore e la magrezza. Quanto a Pollyanna, Accarezzava il cane, lisciava il pelo al gatto, ammirava i fiori, mangiava la frutta e i dolci che le facevano avere e rispondeva sempre con vivacità e buon umore agli innumerevoli messaggi di simpatia e di interessamento che riceveva da tutte le parti. Anche lei, tuttavia, si faceva sempre più pallida e debole e la continua attività delle sue piccole mani e delle sue braccia non facevano che esaltare la penosa immobilità delle gambe. Una volta sempre in movimento e che ora giacevano tanto tragicamente sotto le coperte. Quanto al gioco, Pollyanna diceva a Nancy come sarebbe stata contenta di tornare a scuola, di andare a trovare la signora Snow e il signor Pendleton e di fare qualche giro in calesse con il dottor Chilton, e non si rendeva conto che tutta quella contentezza era legata al futuro e non al presente. Nancy invece se ne rendeva conto e quando era sola piangeva. Capitolo 26. Pollyanna scopre la verità. Il dottor Mead, lo specialista, arrivò una settimana dopo la data fissata. Era un uomo alto, con spalle larghe, occhi grigi, dall'espressione gentile e un sorriso bonario. A Pollyanna piacque immediatamente e glielo disse: «Lei assomiglia molto al mio dottore». «Al tuo dottore?» Mead guardò con evidente sorpresa il dottor Warren, che parlava con l'infermiera un po' in disparte. Il dottor Warren era di bassa statura, con gli occhi scuri e una corta barbetta a punta. «Oh, ma quello non è il mio dottore», disse Pollyanna sorridendo, poiché aveva intuito la ragione della sua perplessità. «Quello è il medico della zia Polly, il mio è il dottor Chilton». «Capisco», disse il dottor Mead un po' sorpreso, fissando la signorina Polly che, arrossendo, si era voltata in fretta da un'altra parte. Pollyanna esitò un momento, quindi continuò con la sua abituale franchezza. «Vede, io desideravo che venisse il dottor Chilton, ma zia Polly voleva che venisse lei. Diceva che lei ne sapeva più del dottor Chilton di gambe rotte come le mie, e se le cose stanno così ne sono contenta». Una strana espressione che Pollyanna non capì passò sul volto del dottore. «Soltanto il tempo potrà dimostrarlo, bambina cara», disse con dolcezza. Poi si voltò serio verso il dottor Warren, che intanto si era avvicinato al letto. Più tardi furono tutti d'accordo che era stata colpa del gatto, e certo che se Fluffy non avesse cercato di infilare una zampa tra la fessura della porta di Pollyanna e il battente, la porta non si sarebbe aperta senza che nessuno se ne accorgesse e probabilmente Pollyanna non avrebbe udito le parole della zia. Nell'ingresso, i due medici avevano appena comunicato il tragico risultato del consulto alla signorina Polly. Anche l'infermiera era presente. Nella stanza di Pollyanna, Fluffy era saltato sul letto con un miagolio di soddisfazione quando attraverso la porta rimasta aperta risuonò chiaramente la disperata esclamazione di zia Polly: «No, dottore, no, non questo! Non vorrà dire che la bambina non potrà mai più camminare!» Seguì una confusione incredibile. Per prima cosa giunse dalla stanza un terrorizzato: «Zia Polly! Zia Polly!» Allora la zia, vista la porta aperta e resasi conto che Pollyanna aveva udito tutto, si lasciò sfuggire un gemito e per la prima volta in vita sua si accasciò a terra, svenuta. L'infermiera, smarrita, riuscì appena a dire: «Ha sentito tutto!» lanciandosi verso la porta aperta. I due medici rimasero accanto alla signorina Polly. Il dottor Mead non si poteva muovere dal momento che la signorina Polly gli si era quasi accasciata addosso, mentre il dottor Warren stava lì impalato senza sapere cosa fare, e fu soltanto quando si udì un nuovo disperato richiamo della bambina e la porta venne chiusa dall'infermiera che si diedero da fare per rianimare la donna svenuta. Nella stanza di Pollyanna, la signorina Hunt aveva trovato il gatto sul letto che miagolava insistentemente cercando di attirare l'attenzione della bambina che, pallidissima e in preda alla disperazione, non si curava affatto di lui. «Signorina Hunt, per favore, signorina Hunt, preghi la zia di venire subito, per favore, signorina Hunt, la prego!» L'infermiera, anche lei molto pallida, chiuse la porta e le fu subito accanto. «Non può venire adesso la zia, cara, ma sarà qui fra un momento. Che cosa c'è? Posso fare qualcosa io?» Pollyanna scosse il capo. «Voglio sapere quello che ha detto poco fa. Non l'ha sentita anche lei? Voglio la zia Polly. Ha detto, voglio che mi dica che non è vero, che non è vero!» L'infermiera cercò di parlare, ma le parole non gli uscivano dalla bocca e l'espressione del suo volto non fece che accrescere lo spavento negli occhi di Pollyanna. «Signorina Hunt, l'ha sentita anche lei? È vero? Oh, non può essere vero! Cosa voleva dire il dottore? Che non potrò più camminare!» Su, su, cara, non fare così, disse la donna con voce rotta. Forse non lo sapeva nemmeno lui, forse si è sbagliato. Possono accadere tante cose, sai? Ma zia Polly ha detto che lui sapeva curare molto più degli altri le gambe rotte come le mie. Sì, lo so, ma a volte i dottori sbagliano. Adesso cerca di non pensarci più, ti prego, cara, non pensarci. Pollyanna tese le braccia disperatamente. Ma come faccio a non pensarci? Disse tra i singhiozzi. Ho solo questo da pensare adesso. E poi la signorina Hunt, come farò ad andare a scuola? O andare a trovare il signor Pendleton? O la signora Snow? O chiunque altro? Pollyanna prese fiato e ricominciò a singhiozzare. Improvvisamente si arrestò e alzò il viso con nuovo terrore negli occhi. Ma signorina Hunt, se non posso più camminare, come farò mai a essere contenta per qualsiasi cosa? La signorina Hunt non sapeva di cosa si stesse parlando, ma sapeva di certo che l'ammalata doveva essere calmata e anche subito, nonostante il trambusto, il suo stesso sgomento non era stata con le mani in mano e ora si trovava vicino al letto della bambina con un sedativo e un bicchiere d'acqua. Su, su, cara, ora prendi questa medicina, disse in tono molto pacato, e quando saremo più tranquilli vedremo quello che ci sarà da fare. Le cose non sono poi così brutte come sembrano. Molte volte è così, mia cara. Pollyanna prese docilmente quanto le veniva porto, bevendo quasi tutta l'acqua del bicchiere che la signorina Hunt le aveva dato. Lo so bene, è come diceva papà, disse Pollyanna, con ancora qualche sussulto e asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. Diceva che in ogni situazione c'era sempre qualcosa che poteva andare peggio, ma non mi risulta che nessuno gli avesse mai detto in quel momento che non avrebbe più potuto camminare. Non vedo che cosa potrebbe essere peggio di questo. E lei? La signorina Hunt non rispose. Non era del tutto sicura che sarebbe stata in grado di parlare.